Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Bentornati e benvenuti, signori miei. Domenica 12 novembre, 14 in punto, anzi adesso è un minuto. Cominciamo la nuova puntata di Voice Anatomy. Anche oggi bellissime voci, bellissime sorprese che riguardano proprio il nostro mondo declinato in tutti i suoi meandri. Volevo cominciare soltanto rubando un minuto alla trasmissione e all'amico che già ci ha raggiunto qui al mio fianco, un attore, doppiatore e professionista straordinario, perché sono... Vorrei essere tanto Cruciani oggi per cominciare nella maniera giusta, ma il signore, e so che dare per due, replicare a una notizia significa darla due volte, non smentirla, però io sono un po' scocciato, nel senso che il dottor Aldo Grasso ha veramente rotto il cazzo, ma in una maniera profonda, profonda, perché una critica va gestita, va messa e dall'altra parte può essere costruttiva per cambiare un po' il modo di portare avanti una trasmissione o qualcosa. Ora lui credo che mi abbia preso di punta per un motivo di nascita, non so, forse perché sono della Lazio, forse perché sono nato a Roma, non so il motivo per il quale lui sia sempre incattivito anche rispetto a delle cose che hanno un clamore importante, ma importante non soltanto nazionalpopolarismo, voglio parlare di questo perché magari non è detto che 12 milioni di persone che ti danno un plauso tu abbia la ragione completa, però non è detto neanche il contrario, insomma, perché le critiche che sono state fatte alla mia vita da parte di questo signore sono state sempre molto gratuite, senza un occhio per vedere chi ero veramente, che cosa stavo costruendo, da dove è partita la mia carriera. E per quale motivo? Per gli stessi motivi per cui tu distruggi me, esalti un altro, senza fare nomi, perché poi magari l'altro ne ha ben d'onde di essere orgoglioso perché è bravo, sicuramente. Ma non possono essere gli stessi motivi. Sei vestito di rosso, mi fai schifo, quell'altro, che bel vestito rosso. E questo è il fatto che è insopportabile. Criticare questa trasmissione ci sta, tutto ci può stare. E ci sono state delle critiche anche belle, costruttive, da parte di persone che con me interloquiscono attraverso l'osmosi dei messaggi e tutto, per cui Pino, fai parlare di più gli ospiti, leva la parola io, cerca di essere più presente, correggendomi nei sinonimi e nei contrari. Tutto, tutto ci sta ed è giusto affrontarlo e capire se è vero e per migliorare. Dare addosso a questa trasmissione è gratuito, una trasmissione che sono tre stagioni, è l'unica nel suo genere, è una trasmissione che offre sì il ludico e il divertente, il leggero, ma non la leggerezza come superficialità, ma una leggerezza calviniana, almeno così Aldo Grasso capisce quello che sto dicendo, una leggerezza che può essere affascinante per le persone dall'altra parte della radio, che ascoltano la voce che è la cosa più evocativa e l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, per cui parlare con attori, con doppiatori, curiosità importanti sul mondo del cinema, andare dietro le quinte della voce, non soltanto, ripeto, dal punto di vista ludico e di curiosità, che può essere quella di conoscere chi dà la voce a un corpo importante, ma cantanti, ma non solo. Qui si sono alternati personaggi di un'altezza enorme, molto, ma molto più grandi di me. Aldo Grasso dirà sicuramente, è facile essere più alti di te, però sono persone alle quali ho dato voce in tutti i sensi. Parlo di vocologi straordinari come Diego Cossu, o questi tutorial costanti del grandissimo che ci ha seguito fino adesso, fino alla scorsa settimana, cioè Albert Era. Insomma, fare più di 500 nomi mi sembra ridicolo. Per cui una trasmissione che ha vinto anche dei premi non dati per raccomandazione, eccetera. Io vorrei essere molto volgare, ma vorrei essere impossessato veramente dalla spontaneità e dalla asprezza e dalla forza che c'ha l'amico Giuseppe Cruciani, perché pane pane e vino al vino. Vorrei veramente un confronto. L'unica volta che l'ho incontrato ha abbassato lo sguardo e non mi ha anche guardato in faccia, senza problemi, ma soprattutto perché so, carissimo Aldo Grasso, ogni tanto non li scrivi neanche te tutti gli articoli che scrivi. Addirittura una volta, visto che non soltanto tu c'hai delle talpe in studio, anch'io ho ricevuto una critica su una mia trasmissione prima che uscisse quella trasmissione. E visto che quella trasmissione ha fatto successo, quella critica è uscita dopo, al momento che magari ha rallentato, e allora l'ho letta. Identica, quando vuoi, pronto ad affrontarti perché l'ho tenuta. Con tanto di data, pensa, per cui non ti conviene neanche affrontarmi da quel punto di vista. Ma poi mi devi dire veramente che t'ho fatto. Ma me lo devi dire. Forse sei rimasto male perché non hai raggiunto gli obiettivi nella tua vita che ti eri prefisso, quello di essere magari un direttore di Rai 1, di essere il direttore generale della Rai, di essere a capo di qualcosa, e invece ti è toccato far l'arbitro. Volevi giocare. Volevi giocare, volevi segnare, e invece te, purtroppo, devi soltanto scrivere chi ha segnato. E qualcuno ti sta pure sul cazzo che segna e dici se meritava il gol. Quello fai, Grasso. Grasso, veramente, quando vuoi, come vuoi, sia in radio che per strada, quando vuoi. Sarà che oggi c'è il protagonista di Suburra, mi sento un po' coatto, però veramente mi sto trattenendo. Ti posso dire mille cose che hai fatto e che non erano giuste. Hai anche criticato un momento della mia vita importante dicendo ha fatto bene ad andarsene da casa. Questo non te lo perdono. Non perché sia andata via da casa o chissà cosa, ma che c'entra su un giudizio televisivo, un giudizio di vita familiare. Guarda tante cose. Poi te sto sul cavolo, non te piaccio. Sti cazzi, guarda altro, cambia canale. E soprattutto, prima di criticare una trasmissione come questa, cazzo, sentitene almeno 10-20 puntate, cazzo. Fallo. Vedile e parliamone. Dimmi che cos'è che non va. Ah, Dio, va bene, chiedo scusa. Ho utilizzato per la prima volta un veicolo, un media per cose personali. Ma veramente è vero che abbiamo quasi 200.000 persone che ci seguono e ci vogliono bene. E tante volte però basta una persona che ti crea questo stop emozionale che ti dà fastidio. Ti dà fastidio veramente. Vieni qua e affronta. E te faccio leggere quello che scrivi, se sei tu che lo scrivi. Ma lo sai che non sei sempre tu che lo scrivi. E denunciami, ti prego, almeno ci incontriamo da qualche parte. Bene, ti chiedo scusa. Oggi, come sempre, apriamo la trasmissione, non nello stesso modo, ma festeggiando chi, con la sua voce, abbinata a un corpo importante, ci ha regalato delle emozioni importanti. Oggi, fra le tante, faccio gli auguri all'amica Daniela Mietta, che potrei raggiungere, ma non ho più il numero, altrimenti le avrei fatti in diretta o comunque anche personalmente come amico. Tanti, anche Grischelli, credo, oggi sia nata proprio oggi. Ma un altro attore che in questo momento è sull'onda del successo, come Ryan Gosling, ha fatto il compleanno, è il suo compleanno. E noi abbiamo qui Ryan Gosling. Ciao Ryan, come stai? Ciao, buonasera, come va? Ma parli benissimo italiano, sei straordinario. Prenditi questi auguri, quanti anni fai Ryan? Non lo sai? Non lo so, 41? No, sì, non credo, non lo forse so. 36, non lo so, ne compirà 36. Abbiamo qui la voce ufficiale fra i tanti che doppia di Ryan Gosling, ovviamente è un gioco, ma tu sei una delle voci ufficiali di... Beh sì, sei, quella che ha fatto più gli ultimi film senza, della sua carriera. Senza... No, ma è che durerà, poi combatterai con i nostri colleghi, con i tuoi colleghi, ma tanto, ripeto sempre, se non lo vinci tu, poi non lo vince un altro bravo. Lui corrisponde al nome e cognome di Gianfranco Miranda. Buonasera a tutti. Buonasera a te, carissimo. Tu sei nato a Nocera Inferiore, provincia di Salerno. Già. Nel 76. Per nel cui 76, hai 41, compiuti. Ah, per questo hai detto 41. Esatto. Se di Ryan Gosling. Mi controllate Ryan Gosling quando è nato? Volevo tirare un po' di acqua al mio mulino. Nell'80 è nato, 37 anni. C'ha 4 anni in meno di me. 4 esatto. Anni in meno di allora, me. Facciamo una cosa. Cominciamo subito a sentire la tua voce abbinata a Ryan Gosling in un film che è come un tuono, anche se tu ne hai fatti molti. Quali hai fatto? Ah, beh, il primo è stato Drive, poi abbiamo avuto anche Solo Dio Perdona. Poi sì, Solo Dio Perdona, sull'onda del successo del regista di Drive, di cui non mi ricordo il nome perché è un nome difficilissimo. Lo ricorda Mauro Meconi, che lo ama. Come si chiama? Refn, sì, per questo esatto, non me lo ricordi. È un nome... Dici che cosa? Poi Aldo Grasso si incazza perché dice: senti, non sa neanche pronunciare bene il nome di questo regista, mentre lui lo sa perfettamente chi è Refn, che ha fatto l'ultimo film, The Neon Demon. Sì. No? Che sì. Un film particolare, ovviamente film onirici ogni tanto. E infatti lui comunque era così, sì, anche Drive me lo ricordo un po'. Sì, un è po' forse il più leggibile da quel quello punto sì, di vista. Sì. Per cui lo segui. Non l'hai fatto in La La Land, però. Non l'ho fatto in La La Land. Perché non sai ballare. Perché non so ballare e non so cantare. No. Chi l'ha doppiato La La Land? La La Land l'ha doppiato Massimiliano Manfredi. Ah, pure lui non sa ballare, però. Non però è elegante. È più elegante di me. È più alto. Sì. Però gli possiamo menare. Ascoltiamo un momento di Ryan Gosling a Come un tuono, ma con la voce di Gianfranco Miranda. Il gelato l'ho mai mangiato? Ancora no. Non è possibile. È ancora piccolo. Ma che? Come la mandi avanti quella casa? Nemmeno un po' di gelato. Perché non può mangiarlo? Non è che non può mangiarlo, non l'ha mai assaggiato. Posso darglielo? Vuoi fargli mangiare il gelato? Sì. Voglio fare con lui qualcosa che fa per la prima volta. Voglio guardarlo in faccia quando lo assaggia e tutte le volte che mangerà il gelato per tutta la sua vita vedrà la mia cazzo di faccia. Ma non fa niente, piange spesso. Devo prendere anche la moto? Sì, tutta... Hai capito come? Coglili insieme. È una bella moto. Fa parte della famiglia. Ne faccio un'altra? È sicuro che devo scattare mentre piange? Questo è un bel trucco. Funziona. La tua straordinarietà, caro Gianfranco, è che io ti conosco, una persona mite, anche molto timida, sì. Perché un attore poi in effetti lo è, molto timido. E tu non assomigli, tu come uomo, non assomiglia alle cose che fai, cioè non perché tu sia remissivo oppure passivo, chissà cos'altro, ma sei così carino che anche in sala passi inosservato, nel senso, io non ti conoscevo ancora bene e dicevo, quel ragazzo sta vedendo qui, qualche anno fa, sta vedendo come funziona il doppiaggio, no, veramente quel ragazzo ha doppiato questo, che sei sempre in punta di piedi e questo ti fa onore, sì, ovviamente. Sì, sì, beh, io ho iniziato così, mi ricordo che quando ho iniziato che assistevo a Francesco Vairano nel fine, insomma, a metà 99, io sparivo proprio nella sala, stavo seduto dietro di lui, facevo parte della... ormai ero diventato parte dell'arredamento, no? Sì, non facevano come se non esistessi, giustamente, stavo sempre zitto, quindi... No, Senti, la capo progetto Alessia Navarro nelle orecchie mi ha detto ci vuole poco a essere più tranquillo di te. Fatti spiegare un po' come si fa a essere così sereni e a gestire l'ansia in questa maniera senza interrompere gli altri e non utilizzare una frase che una volta mi salvò la vita quando effettivamente uno del pubblico del Costanzo Show urlò, dico ma insegno, però parla sempre lei e io ho detto mi scusi, ha ragione, basta parlare di me, mi parli un po' di lei, che ne pensa di me? Che è una frase bellissima di Groucho Marx, no Gianfranco? È vero questo, io l'ho ammesso. Se Aldo Grasso scrivesse questo, io direi, hai ragione caro Grasso, qualcuno mi dice, chi ha detto non ti curar di loro ma guarda e passa, forse pensava a Grasso. Vabbè. Va bene, no, non voglio ovviamente creare persone complici in questa mia avventura. La Scanso è stata un'inventiva... uno sfogo, me l'ho utilizzato una volta, ma insomma finisce qua, poi se lui la vuole continuare sa dove trovarmi. Miranda, siamo qua, ci senti citofonare sotto, sta arrivando. Tu hai cominciato per cui a fine anni 90, insomma non da tanti, 99. Non poco, perché insomma sono 18 anni, scherzando, sì, ritenendo. Ormai sì, che uno quando pensa agli anni 2000 dice, vabbè, hai cominciato da poco, sono passati 17 anni, sì, da quel, sì, fatidico, sì, 2000. Assolutamente sì, dall'euro. Esatto, tu invece da Nocera. Io da Nocera. Neanche facile come zona, perché come fai, ok, sono a Nocera inferiore, con tutto rispetto, che provincia meravigliosa di Salerno, città straordinaria eccetera, ma da lì pensare di voler fare l'attore e il doppiatore, ce ne passa. Com'è nata questa passione? Beh, papà, mamma? No, papà e mamma sono maestra e professore delle scuole medie. Quindi... Per cui chiamarono un esorcista quando, sì, tu hai, no, detto voglio fare l'attore. Credo di non aver parlato con mio padre per qualche mese per questa cosa. Era meglio dire, sì, sono un tossico papà, sì, lui, sì, ti avrebbe perdonato. Sì, molto probabilmente sì. E com'è nata questa idea di intraprendere la carriera artistica? Beh, in realtà è un po' particolare tutto il percorso, perché io avevo iniziato una carriera completamente diversa, perché io avevo cominciato a fare l'Accademia Aeronautica. Certo. Io ho quasi finito l'Accademia Aeronautica come pilota. avevo preso il brevetto, tutto quanto. Quindi sei un pilota di aerei? Sono stato, perché il brevetto ormai mi è scaduto da più di 7-8 anni, quindi ormai non vale più. No, dovresti rifare tutto il percorso. Devi prendere sempre il motorino per venire al doppiaggio. L'aereo non te lo puoi permettere. Non me lo posso permettere più. In effetti, una carriera. Però quando hai forse ricevuto, pronto, centrale, stiamo atterrando, lì ti è presa con Top Gun, vedevamo Top Gun in accademia praticamente un giorno sì un giorno no, e voli diventa come Chevalier praticamente. Probabilmente sì, cioè, voli diventa un pilota. No, voglio essere Chevalier da grande. E poi lì sono andato via, per cui insomma. E come ti è scattato, qual è stato lo sliding doors della tua vita? La cosa strana è che è iniziata con i cartoni animati, in realtà. Nel senso che io sono un appassionato di cartoni animati, manga giapponese prevalentemente, precedentemente i cartoni della Disney, quindi è iniziato, lo spunto è stato lì. Io i cartoni animati non li so fare. Certo. Credo di averne fatte due volte in vita mia. Come doppiaggio? Sì, però come doppiaggio. Lo sappiamo, uno l'hai fatto, però, molto forte. Sì, però ecco, l'inizio è stato quello. Perché quindi, non li sai fare poi, scusami? Non lo so, perché mi mettono... preferisco guardarli che farli, cioè, non so perché. Ti sembra di rovinare qualcosa di importante che fa parte della tua vita, nel senso... Non lo so, probabilmente sì. È come se ti capitasse di doppiare all'altezza. Un attore enorme e dici no, è troppo per probabilmente me. Probabilmente sì, forse perché non mi sento in grado di riprodurre quella cosa che magari mi piace. Cioè, non lo so. I manga giapponesi, perché quando tu senti è difficile riprodurlo. È difficile perché è veramente una cosa stranissima. Sì. Però, diciamo, è iniziato così. Questo però è tu stato sei stato Capitan Harlock. Perdonami. Sì, sì. Allora, sentiamolo. Capitan Harlock. Capitan Harlock con la voce di Gianfranco Miranda. Mi hanno definito un criminale, un terrorista. Una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Io sono Capitan Harlock ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro. E allora, dai! La bellezza! Vabbè, ma questo è stato tutto merito. Io sono io e voi non siete non siete nessuno. Questo è stato merito di Max Alto, insomma, il lavoro che abbiamo fatto insieme. Bravo, mi Max ha supportato, mi ha aiutato. Sì. Lui supporta e sopporta in maniera molto interessante. Beh, quindi... però questo è un bel monologo ad Aldo Grasso. Tanto oggi il leitmotiv della prima stazione. E basta, mi dico, sì, va bene. Però mi piaceva che lui dicesse io sono Aldo Grasso. E voi, capito? Non siete nessuno. È bellissimo. Per cui ci sei. Beh, va bene, questo è un cartone molto cinema, è vero? Sì, sì, sì. Ma infatti io l'ho fatto soltanto lì. Ho fatto i cartoni, quelli, i film che poi andavano al cinema. Ma i cartoni seriali, quelli dove poi bisogna macinare righe, certo, su righe, io quelli fatico proprio. L'unico che sono riuscito a fare è stato quando ho fatto la serie di Kung Fu Panda di Po, ma sempre perché comunque sono americani, hanno un non so che di diverso, sì, più ironico, più basato anche sulle parole, quindi sul testo, sulla forse perché tu abbi proprio quel tipo di filosofia che sta dietro al cartone animato, sì, manga, sì. C'è proprio un mondo sì, che riguarda l'Oriente, un mondo che riguarda i suoni, perché sì, ogni sì, suono racconta una storia, sì, non esatto, soltanto un'intenzione, c'è una storia dietro, per cui il doppiaggio di quei film, e io con il dottor Cannarsi quando si doppiano quei film, lui ti spiega a livello antropologico il suono, ed è giusto perché quello non è vieni qua semplicemente, ma vieni qua un subalterno, no, vieni esatto, qua un servo basso, per cui il modo di rivolgerti a lui non è soltanto vieni qua, ma c'è un vieni qua, insomma. Sì, sì, È interessante. E tu credo che sia pervaso dal rispetto di tutto questo. Sì, e comunque forse anche una mancanza mia di capacità di rifarla questa cosa. No. Chi ha creduto in te per primo? Chi ti senti di ringraziare? Filippo Ottoni. Ah, lo saluto anch'io, Filippo. Stavo poco bene ultimamente, però Filippo... Sì, però l'ultima volta che l'ho incontrato stava molto meglio. Però lui è stato il primo e credo che sia stato l'unico provino andato bene della mia vita. Si perdono, perché... Che cosa hai fatto con Filippo? Filippo il primo film che ho fatto è stato Elephant, che era di Van Gus Van Sant. Questo lo so. questo lo so. Era dove mi fece fare un film difficile, sì. Molto, molto. Mi fece fare uno dei ragazzi che faceva il fotografo. Questa cosa ci accomuna, perché io vinsi il provino su un film di Gus Van Sant, il primo provino che vinsi importante, su Keanu Reeves, che era Belli e Dannati, ma lo vinsi come Mario Persichetti, perché non volevano che Pino Insegno doppiasse un film drammatico. Davvero? Sì, c'è anche questo. Per cui ci unisce questa cosa. Tu l'hai fatto col nome tuo, io è sempre Gus Van Sant, film particolare. Il primo. Sì, e lì era Francesco Vairano che si impose in maniera molto, molto intensa. Per cui poi da lì, via. Da lì è iniziato, ho cominciato sempre con... Hai già lasciato, non c'era inferiore, sei venuto, sì, a Roma. Ormai sì, sì, sì, ormai sì. Ma io come provino, però intendevo non un provino su parte, proprio il provino per farmi sentire. Ah. Cioè, il primo e unico provino andato bene della mia... Poi dopo sono alti e bassi, qualcuno è andato male, qualcuno è andato bene. Però con lui quel giorno mi fece fare un provino su un personaggio molto emotivo, perché stava sulla tomba della moglie. Lui aveva risolto tutto, ormai il film era finito, aveva risolto tutte le sue mancanze, quindi con più coscienza andava a parlare alla moglie al cimitero, per dire che ormai si faceva un'altra vita. Quindi era un monologo molto, molto intenso. Io quel giorno, non lo so, probabilmente ero depresso, non so, cioè c'era di tutto. Questo monologo venne particolarmente emotivo, particolarmente forte, e lui... mi domandò, ma scusami, ma tu... da dove vieni? Esatto. E da lì ha cominciato a farmi fare cose, ha creduto in me. Vedi, la cosa bella di questo mestiere è che ci sono persone che vanno oltre, perché sì, magari la tua timidezza, il tuo essere meno sfrontato come lo sono stato io, che magari quella a me mi ha permesso di entrare prepotentemente all'interno pur non essendo all'altezza all'inizio, invece il tuo sottrarre incontrando persone deliziose, sì, e intelligenti che vanno oltre l'aspetto e il tipo di comunicazione, sì, non verbale o verbale che uno ha, e poi grazie a Dio ci ha regalato un signor doppiatore, un signor attore. Grazie. Che non è... Adesso stai preparando qualcosa per andare in scena, mi stavi dicendo. Sì, uno spettacolo con il mio maestro, che è Antonio Sanna, con cui ho studiato. Antonio Sanna è un altro bravo attore doppiatore. E stiamo preparando uno spettacolo scritto da lui sul lavoro. Lo spettacolo si chiama La civiltà del lavoro, che è uno spettacolo molto, molto complicato. Infatti andremo in scena a febbraio, la penultima, mi sembra, settimana di febbraio. E sarà un bel lavoro su cui perdere tempo, insomma, è abbastanza difficile. E parla appunto l'evoluzione del lavoro nella società umana dall'inizio fino ad oggi, insomma, tutto quello che ci hanno insegnato a credere, ma che poi in realtà non è vero. Cioè, perché dovremmo lavorare 12 ore al giorno? Cioè, esatto. Perché non dovremmo non avere una vita? Perché non... cioè, perché dovrebbe essere... Che ne so, il contadino dovrebbe valere meno di un medico, considerando, certo, che il contadino produce cose senza le quali noi non possiamo vivere. Assolutamente, cioè, sì. Quindi tutto questo percorso sul lavoro. Quando andrà in scena e dove? Andremo al Tor di Nona. Okay, un bellissimo teatro, molto, del decentramento urbano, ma bella molto, zona, molto è un carino, bellissimo teatro. E, la penultima settimana di febbraio. Ci sei, siamo una in settimana. Prova. Sì, siamo in prova, sì, infatti oggi dopo di qui vado alle prove. Vai alle prove, però sei giustificato, abbiamo anche parlato, dai. Infatti. Poi magari ne parleremo quando saremo vicini al debutto, molto magari volentieri, una telefonata per ricordarlo. Molto volentieri. Ci sarà tutto quanto. E allora io mi ascolterei anche un James Franco, anche lui un altro giovane attore molto interessante. Anche lì ti alterni con Massimiliano Manfredi, perché... Sì, lui la prima volta me lo fece doppiare Filippo Ottoni. Anche lì, vedi? In The Company, che era quel film sulla danza, sì, di Altman. Anche se tu non sapevi ballare, perché no, La lì, Lenda... no, lì però lui non ballava, ballava. Lui non era ballava. Il ragazzo della ballerina, della protagonista, ah, okay. Ma anche alla La Lenda non è che fa sti passi così complicati. Vabbè, però si lancia in... E io mi sentirei, questo Ritorno alla vita, di quando è questo film? Questo mi sa che è di... Di qualche anno fa, sicuramente, anno, certo, fa. Però dai, ce l'ascoltiamo, perché la tua voce veramente ti accompagna in maniera bella. Del 2015, comunque, pochi anni, sì, fa. Sì, qualche anno fa. Sì, sì, ma pochi, pochi. Allora, ascoltiamoci questo Ritorno alla vita. Sei fortunato, sai. Andrà tutto bene. Ho avuto un incidente con la macchina. Che è successo a quella persona? Non voglio parlarne. Possiamo solo cercare di credere che ci sia un senso in tutto questo. Grazie di essere venuto. Dovevo rivedere questo posto. Farei qualunque cosa perché non fosse successo. Quasi ogni avvenimento prima o poi può trasformarsi in una risorsa. Sto molto meglio adesso. Credo che riprenderò a scrivere. I libri prima dell'incidente non erano così buoni. Nessuno mi ha mai ferita quanto te, Thomas. Non c'è niente che riesca a scalfirti. C'è una cosa che vorrei che facessimo insieme. Che cosa? Non mi ricordo. Devo dire una cosa, Gianfranco. Hai veramente quella che io intendo la bella voce. Nel senso che, lo urlo sempre, la bella voce non è la bella voce, cioè la voce bassa, timbrata, eccetera, ma una voce che ti accompagna, che sappia essere evocativa, che si muova nella maniera giusta, che ti prenda per mano e ti faccia credere a tutto quello che ti sta raccontando, come un bel libro scritto bene. Grazie. E la tua voce è veramente, io metterei un po' su tutti, anche sulle donne, cioè funziona, gira bene, è morbida, nello stesso momento non è mai forzata, non è mai, ecco, sta usando la voce sua dente, ci sta cercando di conquistare. Non l'hai mai usata per conquistare? Sei no, fidanzato? Sei sposato? Io sono fidanzato. Da 21 anni. Facciamo 3 anni questo gennaio. Oh, veniamo a festeggiare. Lei è un'attrice? Lei è un'attrice. Beh, anche lei perché fa lo spettacolo con insieme. Facciamo giustamente, insieme. Chi frequenta questo conosci altro. Assolutamente, io non conosco altre persone. Non sei tu il regista dello spettacolo? No, è sempre Antonio, L'importante è quello, perché sai, l'attrice, tu sei fidanzato, non è dato a nessuno, stiamo tranquilli. No, assolutamente no. Veramente molto sereni. Per cui adesso abbiamo preparato una cosa per il secondo blocco, che adesso stiamo andando in pubblicità fra un minuto, che è il comportamento da adottare per lo spannolinamento di un bimbo. Ecco. Cioè questa... Devi cercare di superare Domitilla D'Amico, che con la scusa di aggiusta le mensole sta quasi a 200.000 visualizzazioni. Ma devo dire pure Rodolfo Bianchi con le spiegazioni come si monta una lavatrice c'ha il suo perché. Però è bello, ecco, te lo do adesso. Non te lo leggere però, dagli una letta assolutamente. Sì, che stai facendo adesso in sala? Un po' di tutto? Adesso un po' di tutto. Un film di Netflix, non mi ricordo il titolo in inglese, però è praticamente è la storia vera di questo personaggio americano che ha fatto la rivista National Lampoon. Ah, National Lampoon è quello comica. Sì, esatto, quella satirica. Come desinenza questa, National Lampoon, National Vacation, sì, cosa, sì, tutti sì, i film sì. Del Saturday Night Live per un periodo hanno utilizzato questa... E c'è la storia di questo personaggio. Beh, in America molto, da noi si conosce poco, come al solito. No, assolutamente, cose. Infatti il film è molto carino, poi fanno un sacco di citazioni che ovviamente a noi non conosciamo quegli attori. Che non... Però sono interessanti, le biografie e i biopic sono sempre molto interessanti, molto, mi piace molto, sempre. Riesce a conoscere le persone e dice: ma davvero così? Quando doppia la storia di Peter Sellers, ho detto: ammazza, era infame. Va bene, allora restate con noi. A tra poco con l'amico Gianfranco Miranda. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio anche Giacomo Ferrara, lo spadino straordinario di Suburra, per cui siamo tranquilli, nessuno ci potrà fare del male. E i nostri contest sono lì pronti per cimentarsi in questa avventura. Va bene, allora a tra poco. Voice Anatomy, grazie. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, 14:33 primi, una manciatona di secondi, vicino a me il bravissimo Gianfranco Miranda, al quale ho sottoposto una lettura particolare come a tutti i professionisti che si alternano a questi microfoni. Lui si è letto un attimo al volo, ma giusto un attimo, perché poi molta gente non sa che noi pure al doppiaggio tu arrivi e dici: che pagina, che anello, esatto, ti raccontano un minimo di storia e si va. Ah, dice: non l'ho studiato a casa. No. Neanche lo vediamo sullo schermo. Infatti. Perché lo vedi in bianco e nero, con le strisce, con i responsabili, col pallino che si apre. Adesso poi entrare in una sala di doppiaggio dopo Netflix, Amazon, HBO eccetera, è diventato come andare allo stadio, cioè la tessera del doppiatore. Sì. Se non ce l'hai non puoi neanche fuori casa a giocare, perché magari non sei accettato, non lo so. Senti, che ti hanno dato da leggere? Mi piace, leggi il titolo, va. Mi hanno dato comportamento da adottare per lo spannolinamento di un bambino. Ecco, allora, Capitan Harlock o Ryan Gosling o chi vuoi tu, una musica degna, caro Alessandro, e studiamoci. Mauro Meconi è pronto a riprendere per poi porla sul nostro sito Voice Anatomy, mi raccomando, lo sapete perfettamente. lo sapete, su Facebook. Il telefono l'ho dato oggi, vabbè, ma ce l'avete, 349-238-6666. Intanto godiamoci Gianfranco Miranda per lo spannolinamento, che tu non hai figli poi. Assolutamente no. Assolutamente, capito? Vai! In generale, innanzitutto, è consigliabile non avere un atteggiamento negativo verso le feci. Il ribrezzo verso la cacca, infatti, non è innato, ma viene inculcato nei bambini dall'atteggiamento dei genitori, che tendono a essere disgustati di fronte alla produzione della cacca. Evitare perciò frasi tipo "Bleh! Che schifo! Senti che puzza!" Quando il bambino fa la cacca, lodarlo con garbo, senza esagerare, in modo che non abbia la sensazione che ci si stia prendendo gioco di lui, e trovare con lui un modo piacevole per buttare via la cacca. Salutarla e dire "Ciao ciao cacca!" Può essere un ottimo esempio. Invogliare il bambino a fare la cacca nel vasino, senza però sgridarlo in caso di stitichezza o nell'ipotesi in cui la faccia addosso, è fondamentale per indurgli la sicurezza necessaria per accettare il distacco dalle sue feci come un atto naturale. Gli si può, per esempio, provare a dire che la cacca ha voglia di uscire dal pancino e che non le piace rimanere intrappolata lì al buio e da sola, e che quando uscirà sarà grata al bambino per averla liberata. Vai, Capitan Harlock. Nel caso in cui nessuno di questi sistemi dovesse funzionare, permettetegli di utilizzare il pannolino per fare la cacca, evitando che decida di tenerla con gravi conseguenze per la salute. Quando si sentirà pronto per il passaggio, sarà il bambino stesso a dirvelo, e il pannolino verrà abbandonato in un attimo. Bella, questa se la batterà. Ringrazio tutte le persone che ti stanno salutando. Grazie. Ringraziando, eccetera. Piacevole, bello, di compagnia, evocativo, eccetera. Uno invece si arrabbia e dice: "Oh, ma la trasmissione è per soli romani o anche per italiani? Trova del doppiatore." Ma più di così, dai. Oh, magari una caduta ci può stare in romano, ma non è. Molto, molto, molto, molto carina. Grazie, grazie. Ma io credo che Piero Angelo adesso sostituirà la voce fuori campo per accompagnare i documentari. Nel frattempo, qui davanti a te c'è un giovane attore che vorrà cimentarsi in questo contest, che sta dando frutti insperati, e stiamo arrivando poi quasi alle semifinali, perché fra tutte le decine che si sono alternate a questi microfoni, già aver dato la possibilità dei giovani di lavorare un po' a Radio 24 e farsi sentire è già una bella cosa. Però avere la possibilità di andare in questa finale per aggiudicarsi un film Warner da doppiare, insomma, siamo contenti, male. Anche perché è sempre più difficile entrare in sala in questo assolutamente momento. Sì. E allora, come ti chiami? Buonasera a tutti. Ciao, ciao Gianfranco, ciao, ciao Pino. E Valerio Bertaccini. Da dove vieni, Valerio Bertaccini? Da Roma. Da Roma. Romano. Quanti anni hai? 25. 25. Se quella è l'età, per cui io non ho problemi se sono bravi. Beh sì. E che mi frega, c'ho 53. Sono venuto perché avevo 24 anni. Esatto. Che cosa hai portato? Allora, La leggenda del pianista sull'oceano di Alessandro Baricco. Sì. Una, penso, delle più belle opere che abbia mai scritto Alessandro. Alessandro, capito? Alessandro, no, perché sono un suo grande fan. Beh, ragazzi, io e Martin, da quel film, uno dei più belli forse di Martin, che è stato Casinò, oppure Brevi ragazzi. Che sono un grande fan, come un grande scrittore comunque. Sì, no, no, ma lui lo sa. No, ma mi fa ridere, poi ovviamente voglio cercare di rilassarti anche un po'. Certo. Hai musica di sottofondo, qualcosa? Sì, abbiamo proprio la colonna sonora di Ennio Morricone. Esatto. E allora vai, in bocca al lupo, ripeti il tuo nome, cognome e il titolo del brano. Valerio Bertaccini, 900. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti e gente strana, e noi. Eppure c'era sempre uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a 1000 sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti, e gridava L'America! Poi rimaneva lì, immobile come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America. Ok, bene. Ci sono stati dei buonissimi momenti, poi non siamo qui noi a giudicare, no. Ovviamente ci penserà poi la commissione, eccetera. E dei momenti ottimi, e poi ogni tanto sono andato sul didascalico, un po' questo compiacerti di questa gioia era un po' cercata, però sei giovane, è normale, non trovi Sì, assolutamente sì. Ci sta tutta, però bene, anche perché è un testo difficile, un film, no, insomma, Roth... Bravino, anche Popolizio devo dire che si è incollato molto bene. Una grande opera, quindi. Dai, tu che cosa fai nella vita? Nel senso, fai questo mestiere? Stai io studiando? Sto iniziando, sì. Il mio motto è testa bassa e pedalare, quindi. Quello di tutti. Pure. Piano piano. Pure il nostro. Senza fretta. Ho iniziato un anno e mezzo fa. Com'è prima che facevi? Come lui il pilota di aerei, come Miranda? Il venditore. Il venditore. Quella è un'ottima base. Io facevo rappresentante dei materassi e io pur di stare in mezzo alla gente ho fatto di tutto. Ho lavorato per 2 anni come ragioniere, sono uscito come ragioniere, però cantavo davanti alla tastiera, quindi parlavo da solo davanti alla tastiera. Lì hai avuto il primo ricovero. E poi, sì, 118. Lui canti tu, canti. Sì. Sì, faccio anche serate di no bar. A cappella, su. Fly me to the moon, let me pray among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Dio, come sei crooner. Hai capito? Frank Sinatra, ma che questo te leva a te a Manfredi. Ma no, abbiamo un altro ragazzo un po' più grande, un secondo di questo contest. Come ti chiami? Mi chiamo Demis, vengo da Verona, ho 41 anni. Demis, bello. Demis, sì, con la M. Abbiamo. Demis. Demis. Da dove viene? Demis Roussos. Demis Roussos, Grecia, per cui. Esatto, è un nome greco dato dai miei genitori perché la loro canzone era appunto cantata da The Aphrodite Child. Child, che c'era pure Evangelist, tanto per dire. Esatto. Qualcuno, un gruppetto di quelli così. Esatto. E che cosa hai portato, amico mio? Ho portato una scena di Shining di Stanley Kubrick, doppiato da. Giannini, chiaramente. Esatto. Va bene, allora ripresenta il nome e cognome e il titolo del brano, così ce l'abbiamo secco per riascoltarlo. Vai. Perfetto. Demis Zuani, Shining. Ti preoccupa la salute di Danny, vero cara? E sei agitata per tuo figlio? E non sei agitata anche per me? Certo, anche per me. Ma tu ci hai mai pensato alle mie responsabilità, eh? Hai mai pensato solo un secondo, un momento, quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo, da quando siamo qui, alle mie responsabilità verso la direzione? Non ti sei ancora reso conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al 1° maggio? Non te ne sbatte niente a te, vero? Che i proprietari mi hanno messo in mano l'albergo e che hanno fiducia in me e che io ho sottoscritto una lettera, un impegno, un contratto col quale ho accettato di prendermi questa responsabilità. Ma tu ce l'hai una vaga idea di che cos'è un principio etico e morale? Ce l'hai! E tu ce l'hai solo una vaga idea di che cosa sarebbe il mio futuro se non ce la faccio a rimanere in impegni che ho preso? Ci hai mai pensato tu? Rispondi! Ok, no, ci eravamo preoccupati perché poi mi mancava Wendy, sono esatto, a casa! L'accettata. Poi ho incontrato l'altra sera il grande Giancarlo Giannini che sto cercando di convincere a farsi una passeggiata qui, perché non viene lui, santa miseria, è inutile che ci siamo noi. Tutti i film di Kubrick. Però mi ha raccontato tante di quelle cose, ho detto utilizzerò tutto quello che mi hai raccontato facendo finta che sei qui e mando i pezzi dei tuoi film e basta, farò qualcosa del genere. Vabbè, Demis, tu fai l'attore, immagino, da un po' qualcosa e... No, se devo essere sincero, così. Non ho mai studiato recitazione e come e mai fatto teatro. Voglia. Ma allora dico, mi ha sempre interessato l'ambiente del doppiaggio. Poi negli anni mi hanno sempre detto che comunque ho un timbro vocale abbastanza interessante. Però poi va gestito da attore, insomma, no? La base devi essere un attore. E ho cominciato un corso di doppiaggio a febbraio di quest'anno. Con chi? Con Laura De Biasi a Verona, al Censubcom. Che è un centro che esiste dal 2003, ma l'ho scoperto solo negli ultimi 2 anni, io. diciamo, anche perché il mio lavoro è completamente diverso. Che cosa fai? Io faccio l'artigiano, faccio argentatura, doratura. Non lo perdiamo però, l'artigiano in Italia, gli artigiani sono la cosa più bella del mondo, eh. So, anche perché è una cosa che continua, che continua da mio padre, mio nonno, quindi... Vabbè, dai, fallo con una bella voce, ma continua a farlo. No, ti auguro però assolutamente di continuare in tutti e due i campi in qualche modo, anche se dovrai spostarti, casomai. Quello è chiaro, poi c'è anche il campo della musica, vabbè, ma... Anche lì, suoni canto, e canto. Soprattutto, e suono, sì. Allora di a nonno a tutti, dici chiedo scusa e avi miei, io me ne vado, chitarra e sacco in collo e via. Va bene, allora tra poco con Voice Anatomy, con Gianfranco Miranda ancora e i nuovi altri ragazzi che si alterneranno per questo contest e l'amico Giacomo Ferrara che già è arrivato pronto, ma non mi minaccia perché lui nella vita è veramente un buono. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci già di ritorno, 14:45, anzi quasi 46 in questo momento. Alessandro mi ha strillato, mi era alzato un attimo per evitare le piaghe da decubito, ma mi ha strillato. Arrivano tanti bei messaggi, questo mi fa ridere, di Francesca che è una parassitologa e lo dice con sorrisi, dice: le feci umane sono l'apoteosi dello schifo puzza tanfo, solo le feci dei maiali possono competere con la puzza. Sorrisi, Francesca. Beh, qualcuno pensava alla trasmissione di semana, sentiva che si intitolasse Boys Anatomy, mo adesso non potevamo fare una cosa del genere. Insomma, mi sembra un po' forte, insomma, contrastiamo queste forti e ci fa Demis, sei favoloso, versatile e allegro. Bravo Valerio, forse eri troppo felice quando recitavi. Vedi, è quel compiacimento che io ho detto, è stato notato. Percepito. La tua calda voce accompagna il pomeriggio domenica, complimenti a Gianfranco, eccetera, eccetera. Sì, bene, ma anche da voi accettiamo ovviamente dei consigli. Altri due... contest sono qui giunti in studio. Gianfranco, ti chiedo sempre di rimanere, insomma. Ma certo. Crea un po' d'ansia, ma quella è giusta, che ci vuole. Insomma, io credo ansia. Di fronte a un professionista. Però quando c'è un professionista vero dall'altra parte, magari c'è l'impegno e poi, insomma, essere la timidezza, il fatto di essere emozionati, bisogna poi convogliarlo all'interno della recitazione, così esce fuori qualcosa di importante, non cercare di implodere in qualche modo. Sentiamoci la voce di questa fanciulla, visto che abbiamo sentito due omaccioni. Ciao a tutti. Ehi, tesorino. È grande, eh? Maggiorenne, eh? Attenzione. Sì, sì. È la mia vocina che è un po' così. Un po' tatina. Pronto, tesoro, mi passi tua sorella, per favore? Ma sono io. Quanti anni hai? Ho 24 anni. Ehi. Vengo da Torino. Chiamo Sonia di Lecce. No, decidi. Sì, prendi una strada, prendi che sia quella. Mi chiamo di Lecce, ma vengo da Torino. Benissimo. Sono nata a Torino, vivo papà lì, e mamma, papà e mamma di Torino. Pugliesi? Papà sì. Dai, papà sì. Almeno uno. Lecce, provincia di Taranto. Taranto. O si chiama di Lecce. Si chiama di Lecce. Madonna mia, bellissima. Poi Lecce è straordinaria. Nulla togliere a Taranto, dove c'è quella piazza dove mangiamo con la premiata ditta, c'è una pescheria. Davanti e dietro c'è il ristorante della pescheria. Il ristorante è da Gesù Cristo e la Madonna, si chiama, ecco. Perché sono madre e figlia, adesso credo uno di due ci abbia salutato. Non vi dico i motivi per il quale si chiama in questa maniera. C'è una perdita di controllo da parte dei proprietari, ogni due secondi si aggiunge un sostantivo, un aggettivo prima di qualunque cosa, soprattutto del nome della pescheria, per cui impronunciabile, altrimenti per me Radio 24 finisce qui. Allora, tu studi recitazione? Io sì, ho appena ultimato un corso di doppiaggio che è durato 3 anni, doppiaggio e recitazione nella mia città. E chi c'era? Gianni Gaude, Lucia Valenti. Vabbè, no, non li conosco perché sono credo di Torino. Sì, sono di Torino, sì, okay, sì, speriamo, sì. Cioè, sicuramente bravi professionisti, insomma. Sì, presso tutto proprio rispetto. Uno studio di doppiaggio, quindi assolutamente, sì. Me lo auguro che non era... Sì. Insomma, in un supermercato, un studio di doppiaggio, sì. No, no, sì, ma sì. Ci sono dei bravi professionisti anche a Torino e a Milano, insomma, bisogna dare atto anche di questo, giustamente. Che cosa hai portato? Io ho portato un estratto dal diario di Bridget Jones. Ok, per cui il giupizzo sarà all'ascolto. Sì, no, spero di no. No, no, c'hai la voce un po' tatina, anche lei ce l'aveva questa voce tatina nel film. Allora, ripresenta di nome e cognome il titolo del brano. Allora, Sonia di Lecce, mm-hmm. E il diario di Bridget Jones. E così presi una grande decisione. Mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l'anno prossimo mezza ubriaca ad ascoltare FM Nostalgia e le canzoni più belle degli... Niente, vabbè, no, facciamo finta che c'è stata un'interruzione audio. Allora. Scusate. Allora. Ricominciamo. Vai, tranquilla. E così presi una grande decisione. Mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l'anno prossimo mezza ubriaca ad ascoltare FM Nostalgia e le canzoni più belle per gli ultra trentenni. Decisi di prendere in mano la mia vita e cominciare un diario, in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero uno. Ovviamente perdere 10 kg. Numero 2. Mettere sempre a lavare le mutande della sera prima. Ugualmente importante, trovare un ragazzo dolce, carino con cui uscire, evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. E soprattutto, non fantasticare su una particolare persona che incarna tutti questi aspetti. Ok. Sì, sei stata un po' didascalica certe volte. Okay. Un po' poco rapida come dizione, okay. Mentre qui la leggerezza si denota anche dalla velocità di esecuzione delle parole, come dizione un po' più rapida. Prova a leggere un po' più velocemente, provaci un attimo, più veloce. Veloce. Dall'inizio? Sì, sì, al volo, okay. Così, tanto per provare, questo è fuori concorso. Ok. E così presi una grande decisione. Più veloce. E così presi una grande decisione. Mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l'anno prossimo okay, mezza ubriaca. Okay. Soltanto questo, cioè okay. Variare un po' di sì. Più, movimentarla un po' di più. Okay. Però va bene. Tesoro. Grazie. Va bene. Grazie mille. Vicino a te, questo principe. Ciao. Ciao. Sono Alessandro. Puoi avvicinarti al microfono. Ah, ok, non sì. È, mi distanzio un po' rasoio. Perché poi dopo un po'. Devi strillare. Sì, sì, ma dopo c'è lontano. Anche un grande fonico dall'altra okay, parte. Okay, che tu farai campo quando il campo okay, è allontanarsi okay. Nel modo va giusto bene. E lui ti riprenderà. Non troppo, se non si sente l'ambiente. Okay. Come ti chiami? Alessandro. Vieni. Alessandro Salvatore. Sì. Anche tu devi decidere il nome e il cognome, esatto, quello è difficile. Esatto, già quando andavo a scuola. Sì, capirai. Penso al mio di cognome. Io vengo da Asti, okay. Città natale di Carlo Valli. Ci tengo a dire. Bravissimo, il grande Carlo. Ma piemontesi. In realtà io sono di origini pugliesi da parte di mio nonno materno. Sì, ma c'è vabbè, il nord di quella parte, c'è molta però, Puglia, insomma. Bellissimo. Esatto, anche perché mi chiamo Salvatore di cognome. Che esatto. Non è proprio settentrionale come cognome. Esatto, più okay. Aostano. Esatto. E cosa hai portato? Allora, io ho portato un pezzo dei Blues Brothers, mm-hmm. Tratto dal film dei Blues Brothers. È il pezzo in cui Jake mette la scusa a lei, chiede scusa che non l'ha sposata. Alla sua fidanzata, esatto, che lo minaccia col fucile. Le cavallette! Esatto. Okay, Massimo mentre Giuliani. Stanno andando lui e suo fratello a fare il concerto. Il concerto, Everybody, eccetera, eccetera. E allora ripresenta il nome e cognome e il titolo del pezzo. Ok. E il titolo del film. Alessandro Salvatore, The Blues Brothers. Ti prego non ucciderci. Ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia. Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Ok, andiamo, Elwood. Hai fatto pure il finale. L'hai clonato il grande Giuliani. E bravo anche a me. Sì, sembrava di riascoltare lui. Sì, in sì, sì, sì, sì, molto. Hai preso anche certe impuntature di Massimo sul molto pezzo. Simile. Sì, perché poi uno ascolta loro. Anche se un grande John Belushi va ascoltato anche lui, certo. In versione originale, ma è molto, molto simile. Falla un po' drammatica. Drammatica. Con calma, sì, tranquilla. Come se leggessi l'incipit di un romanzo importante. Drammatica. No, seria. Seria. Senza strillare. Ti prego, non ucciderci. Ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia. Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. Va bene, tanto no, scatto è colto di sorpresa. Che... ma quello, giusto, no, giusto. Beh, giusto è quello, dai, giustissimo. Ci sta anche quello, che sennò hai imparato così bene questa cosa. No, infatti, che poi invece... magari. No, non segniamo. Mauro Meconi dice c'è l'ultimo. Ah, vogliamo in questo stesso blocco riuscire a sentirlo? Ok, va bene. Che un conto è ricalcare le intonazioni, esatto, di uno, un conto è trovare in emulazione, poi magari. Quello è difficile. Ok, abbiamo però un minuto e mezzo. Un minuto. Ciao a tutti. Dai, vieni, ma tu puoi rimanere intanto. Okay. Vieni, accomodati e veloce. Come ti chiami? Eccomi. A freddo, dimmi. Non sento. Non senti? Sento poco dalle cuffie. Alzati, va bene, credo non facciamo in tempo. C'è un volume lì nella cuffia, vedo. Ci sei? Senti la tua voce? Ok, okay, ora sento. Ah, è perfetto. Perfetto. Vedi, quanti anni hai? Come ti chiami? Da dove vieni? Mi chiamo Francesco Durando, ho 25 anni e vengo da Torino. Ah, oggi proprio ci abbiamo. Sì, è stata. Un'imbarcata piemontese, sì. Sono contento. Allora, a saperlo prima ci mettevamo d'accordo. Esatto, mettevate la macchina insieme e pagavate, sì, meno. Dai. Sì. Che cosa hai portato? Ho portato un pezzo di Il Grande Gatsby all'inizio. Grande quando, Gatsby? Sì, Grande Gatsby, quando Nick parla di quando arriva a New York e si trasferisce. Però io credo che non facciamo in tempo, vero Alessandro? Mancano 20 secondi, è un peccato. Allora, ok, resta qui con noi. Adesso facciamo anche accomodare Giacomo Ferrara, al quale poi daremo lo spazio necessario. Anche Gianfranco può rimanere, anche quando c'è Giacomo. Sì, mi fa piacere questo incontro fra attori, attori doppiatori, eccetera. Allora, rimanete con noi per l'ultimo contest di oggi, per poi dare il benvenuto a Giacomo Ferrara e continuare anche a fare una chiacchiera con l'amico Gianfranco Miranda. Molto volentieri. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, le 15 in punto e una manciatina di secondi. Alla mia destra si è alternato da un attore doppiatore che è rimasto, no, alla mia destra è andato Gianfranco Miranda, è ancora qui che ci fa compagnia, vicino a lui l'ultimo contest della giornata. Questo ragazzo viene a Torino, alla mia sinistra viene un amico, un ragazzo che al quale voglio bene da tempo insospettabile, ed è, sì, Giacomo, sì, Ferrara. Sì, salve, sì, a tutti. Dire. Eccolo, Giacomo Ferrara che viene da un grandissimo successo, voluto, cercato, perché ha studiato tanto nonostante la giovane età, per cui non è stato regalato tutto. Beh, assolutamente, questo. Assolutamente, c'è tanta gavetta, come tu l'hai fatta, sì, è giusto, sì, che la facciano tutti, insomma, no? E quindi, però tu sei stato bello. Venduto in 190 paesi, a me mi hanno svenduto in un paio di regioni. Beh, non è vero, non è vero, assolutamente sì. Ovviamente sto parlando di Giacomo Ferrara, che in questo momento è conosciuto moltissimo da parte di Spadino per quanto riguarda questa serie fortunata e bellissima che è Suburra. Sì, è assolutamente una bellissima serie, come ne stavamo dicendo anche prima quando non ci ascoltavate, insomma è una serie che ti prende un binge watching, quindi vedi un episodio dopo l'altro, te lo mangi. È vero, è vero, è vero, vai a rota, come, sì, si, esatto, dice, come si dice a Roma. È vero, c'è una bella guerra positiva fra voi, Gomorra e il Romanzo Criminale, insomma siamo. Ma sai, sono tre serie bellissime, girate da Dio, e poi hanno tre sfumature diverse, non sono proprio la no, il genere, il macro genere è quello. Però e no, sono tre serie assolutamente fatte da grandi professionisti di alta qualità, di e quei quindi due Solli, ma insomma comunque. Sì, sì, assolutamente. Anche il film di Suburra viene da Solli, esatto. Ma insomma c'è Stefano un po' ovunque, c'è, poi c'è pure di là, fra i miei autori, hai visto, c'è Mauro Meconi che era Fiero, sì, Locchio di Romanzo Criminale, che non voleva farti venire, mi ha detto vabbè, chiamare gente di altre serie quando c'è Romanzo vabbè, Criminale. Vabbè, ma se volete io vado. No, è lui che va. No, Mauro Meconi va, dico no, Giacomo. No, assolutamente. No, vabbè, la soffre un po', ma insomma ci sta. Sono tante cose a proposito di quello che ho detto all'inizio della trasmissione, va bene, condivide, cioè, vi ringrazio, picchiaduro. Se fossi stato posseduto dallo spirito di Cruciani avresti detto: caro Grasso, ti abbraccio forte e ti mando serenamente a fare. Vabbè, cioè, no, qualcuno dice: vabbè, potevi non essere volgare, ma non sono stato volgare. Assolutamente, ho cercato di sfogarmi un attimo, una volta, dopo 30 anni, concedetemelo. E allora, carissimo Giacomo Ferrara, ma sì, adesso ci ascoltiamo l'ultimo ragazzo che è un po' in tensione. Assolutamente, viene da Torino, assolutamente. Che abbiamo dato questa possibilità che si concluderà entro due puntate e poi ci saranno le semifinali e la finale. Ma non è un talent, è un contest che è diverso, insomma, per giovani professionisti che avranno la possibilità di affacciarsi nel mondo del doppiaggio. Assolutamente. Provini grande, veri, senza scorciatoie, senza io conosco, sono amico di, non c'è niente. Bellissima di opportunità, questo. Bellissima quello opportunità. Quello che hanno dato a te anche con Suburra. Sei arrivato lì come ragazzetto d'accademia, sì, che già faceva qualcosa e poi. Vabbè, lo possiamo dire, lo io ho fatto. Ma non fa niente. Vabbè, no, vabbè, lo diciamo dopo, adesso no, diamo sì, lo spazio giusto. Dai, allora ti ripresenti e mi dici il nome del pezzo che porti. Sì, allora, Francesco Durando, Il grande Gatsby. Ok. Nell'estate del 1922, il ritmo della città era sull'orlo della frenesia. Le azioni raggiungevano vette da record e Wall Street prosperava in un crescente delirio di ricchezza. Le feste erano più fragorose, gli spettacoli più eclatanti, gli edifici più alti, la morale più licenziosa. E il proibizionismo aveva prodotto l'effetto contrario, riducendo il costo degli alcolici. Wall Street irretiva giovani ambiziosi e io ero uno di questi. Affittai una casa a 20 miglia dalla città a Long Island. Vivevo a West Egg, nel cottage dimenticato da un custode, strizzato dalle ville dei nuovi ricchi. Per cominciare mi comprai una decina di volumi su credito bancario e investimenti. Cose nuove per me. Col sole che splendeva e le foglie che esplodevano sugli alberi, decisi che avrei passato l'estate a studiare. Ed è probabile che lo avrei fatto se non fossi stato distratto dagli sfrenati divertimenti che ammiccavo da oltre le mura di quel colossale castello, di proprietà di un signore che ancora non avevo conosciuto. Un certo Gatsby. Gatsby, non ti piace proprio dirglielo. Scusate. Non ti preoccupare. Sapessi io che durante il film che doppiavo Freud, parla la prima lettera, dice non mi dite niente, non voglio sapere la storia, tanto non va bene. Comincio, sono Sigmund Freud. Ti scrivo questa lettera, caro amico Jung. Pino Jung, cavolo. Jung. Jung, non è Neil Young, quello è un altro, pensa che figura. Per cui Gatsby, che non sentite che pulpito. Certo. Va bene, amico mio, in bocca... Sì, come non c'è Gatsby, lo so, ma stavo prendendo in giro, ma hanno ripreso perché si pronuncia Gatsby. Ah, ok, allora ho fatto giusto. Però sei così carino che non mi hai dato torto, pur lo sapevi che si diceva Gatsby. Per cui per te, Voice Anatomy continua. Va bene, no, bene. Fantastico. Vedremo così. Ciao, bello mio, grazie, grazie Ciao, davvero. Grazie. Ciao. Rimango qui ancora con Giacomo Ferrara e anche Gianfranco Miranda, se vuoi rimanere fino a fine, a me fa piacere che ci sei sì, in questo sì, ping-pong. Io forse tra un po' devo andare perché alle 3:30 ci iniziano le prove. Allora, facciamo così, sentiamo questo pezzo tuo ancora. E poi ci saluti. Sì. Volevo sentirmi Il cacciatore di aquiloni, dove tu fai una parte importante, un film meraviglioso. L'hai Bellissimo. Visto già? No. Guardalo. È meraviglioso. Film qualche anno fa, meraviglioso. Ascoltiamolo, Giacomo Miranda, dove tu doppi Khalid Abdallah. Hai fatto Giacomo Miranda. Giacomo Miranda. Giacomo. Siamo uniti in un solo essere. Oddio, scusa. No, dopo il grande Gatsby, per me è finita. Adesso Aldo Grasso, domani mi ammazzo. Sentiamoci, Gianfranco Miranda, nel cacciatore di aquiloni. Qualcuno farà delle domande. Amir, non c'è. No, Soraya, va bene. Vede, generale, mio padre ha avuto un figlio dalla moglie del suo servo. E quel bambino si chiamava Hassan. Hassan è morto ora. E quel bambino che dorme di là è il figlio di Hassan. È mio nipote. Può dire questo quando glielo chiederanno. Ah, un'altra cosa, generale. Non dovrà più riferirsi a lui chiamandolo bambino Azara in mia presenza. Ha un nome. Si chiama Sorab. E lui si chiama Gianfranco Miranda. Continuo a non saper dire generale. Perché ancora una leggera sporcatura. Sì, c'è... generale è proprio una parola. Di generale. Generale. Oh, vedi? Vedi? Io, niente. La R di generale proprio. Perché non... lui ha fatto un'accademia vera e tu non l'hai fatta. Appunto. Lui ha studiato con persone degne e poi ne parleremo di queste persone. Diciamolo. 18 anni. Io sono abruzzese, origine abruzzese. Di Villa Magna, in Abruzzo, sulla catena della Maiella, massiccio. No, della Villa Magna è un paesino che sta in collina. Poi la mia famiglia ha un'attività in montagna, quindi sì, sono le mie due case, diciamo. A 18 anni sono arrivato a Roma e ho fatto l'accademia. E tu mi disse questa casa non è un albergo. Te ne andasti così. E ho fatto comunque l'accademia di questo signore, la Corrado Pani. Assolutamente, sì. L'accademia di Pino. E lì poi ho conosciuto Alessandro Prete, che salutiamo, il nostro regista, amico, per me figlio da un certo punto di vista, per te anche padre artistico, perché padre poi lui ti ha cresciuto, fratello, amico, assolutamente. Sì, tutto sì. È vero. Salutiamo Miranda che deve andare, infinite, che non è ovviamente il film di Tinto Brass, no, ma è Gianfranco, no. Assolutamente, in bocca al lupo, ci risentiamo, ci rivediamo in sala, ma ci risentiamo per il debutto dello spettacolo. Molto volentieri, con grazie i tuoi infinite. Splendidi colleghi laggiù, grazie in infinite. Quel di Tor Bella Monaca. Grazie. Ciao Gianfra. Puoi anche buon fare rumore mentre ti alzi e andare. Io bene. Continuo a parlare. Grazie. Grazie mille. Con il bravo Giacomo, tu a parte Suburra, che ne parliamo, ne parleremo sicuramente perché è un grande successo. Tu hai lavorato anche con un caro amico che è Riccardo Rossi, La prima volta di mia figlia, che film è molto carino, delicato, delizioso. È stato il mio primo film, esatto. È stato assolutamente il mio primo film dove c'era questa... questa situazione, ovvero che Riccardo scopriva che sua figlia voleva fare per la prima volta l'amore e organizza questa cena con tutti i suoi amici e una alla volta raccontano la loro prima volta e con ognuno dei flashback, e io ero il flashback di Riccardo, ero Riccardo da Riccardo giovane. Riccardo da giovane, esatto. Carino, Riccardo Rossi, ma vedo, devi venire ospite, mai venuto. Senti, io proprio, visto che Alessia Navarro si è cimentata molto a costruire un percorso di domande interessanti, e io le seguo come un bravo esecutore. Perché sennò... No, che sei matta, conosci, no? Sei pazzo, pure in scena, quella mena. E sono pure belle, per cui è giusto conoscerti anche attraverso questo percorso. Cosa spinge un giovane ragazzo di una piccola realtà abruzzese a mollare il paese, la famiglia, un lavoro di famiglia che avresti potuto continuare tranquillamente, venire a Roma e fare l'attore? Assolutamente... tanta passione, la realizzazione di un sogno che, come detto prima, non avviene subito, ma c'è tanti sacrifici, tanta abnegazione, c'è veramente un darsi totalmente a questo lavoro, perché bene o male è così, devi spingere fino alla morte e lottare per ogni cosa. Ma quanti anni hai? Tu sei giovanissimo. Tra poco 27. Macello, è finita. È finita. Tu sei una discesa, è Giacomo. È una discesa all'inferi proprio. Sì, no. Per cui anche lì i tuoi genitori hanno detto, vabbè Giacomo, vai. No, loro sono tranquillissimi. Anzi, io li ringrazierò per tutto il resto della vita, per quello che hanno fatto per me. Sono stati... hanno creduto in te, siete che eri molto deciso, Giacomo. Sì, hanno visto negli occhi. Ho deciso 8 anni, quindi era impossibile. A otto anni. E che, qual è stata la cosa che ti ha detto? Voglio fare attore. Perché appunto nell'albergo c'era l'animazione che intratteneva il pubblico, gli ospiti dell'hotel, e mi hanno messo sul palco e ho capito che era quello. Però tu proprio... poi sei molto, sei un ragazzo giocoso, leggero e divertente, però in effetti poi il tuo impegno teatrale, perché tu hai cominciato con quello, ringraziando, è stata sempre una parte seria. Poi insomma, purtroppo Alessandro Prete poi mette in scena solo massacri, omicidi, suicidi, non è che ti ha aiutato a dimostrare che sei pure simpatico. Però se pensi anche a Spadino, comunque Spadino, la commedia, c'è sempre questo ironia. Doppio lato, no? L'ironia che ti fa ridere però è drammatico, cioè... Sì, il balletto che è questo tic del balletto. Questo tic del balletto è nata proprio Come con nata? Alessandro, perché noi abbiamo lavorato... Sul personaggio, perché adesso con Alessandro preparo tutti i miei personaggi. È nata proprio in un'improvvisazione che lui mi ha detto: ma perché non la teniamo sta cosa del balletto? Ho detto sì, sei e sicuro? L'hai proposta sul set al sì, regista? E assolutamente sia Michele che la Michele produttrice. Placido ovviamente parliamo. Sì, Michele Placido che saluto, e Gina Gardini la produttrice di Cattleya, che era sempre sul set, l'ho proposta, hanno detto sì, ci piace, assolutamente, teniamo. Non è abusato, perché lo fai in momenti giusti, poi non possiamo raccontare niente ovviamente, perché qui ci arrestano. Chi non l'ha vista... No, ma scherzi, lo spoiler. Lo spoiler su Netflix proprio è una cosa... Noi firmiamo dei contratti di Eterne, zitto, dei bono, pure se stai in punto di morte. No, ma che scherzo, assolutamente. Qui mi dicono, il figlio di Sollima, regista di Sandokan, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Sì, Sollima è così. Adesso che poi sta in America adesso. Ha girato un film con Benicio del Toro e Josh Brolin, Soldato, che è il sequel di Sicario. E quindi sì, lo aspettiamo questo film. Beh sì, poi magari negli ultimi due film l'ho fatto Benicio del Toro, magari io doppio, mi faccio così conoscere, dico ma c'è una pausa, uno che muore, una seconda stagione. Mi piace tanto guardarle e doppiarle, farlo il cinema... mi annoia un po', nel senso, il cinema vive benissimo senza di me. No, vabbè, ma al di là di quello sono proprio due cose diverse, due tipologie di lavoro diverse. 8 ore di camerino, un'ora sì. Sul set. Molto, molto del lavoro sta nell'attesa, molto nel lavoro sta nell'attesa, che devi aspettare, perché tutti vedono la scena, sono 2-3 minuti, esatto. Poi invece ci vogliono ore per fare quelle scene, perché ogni volta devi cambiare inquadratura, devi rifare la scena, ripeterla. E non devi raccontare quali scene, ma ci sono delle scene veramente difficilissime. Una Roma fotografata benissimo, anche lì una grande bellezza al contrario, è sempre bella. C'è Arnaldo Catinari alla fotografia, che grandissimo, veramente la racconta quel cielo cupo, ma Roma nitida. Sì, ma poi sua... hai visto anche le diverse atmosfere che per ogni personaggio cambia. Ha un colore diverso, certo. E quindi è stato veramente interessante. Bravissima Claudia Gerini. Bravissima, ma lei, Alessandro Borghi, Edoardo Valdarnini, Filippo Nigro, Francesco Acquaroli. Guarda, se ne... è un film teatrale. Tutti quanti. E poi è teatrale, nel senso che di attori ce ne saranno 15. Sì, è un film corale. Film ma corale, 15 quindi... persone che reggono 10 puntate, perché poi gli altri, insomma, sì, c'è qualche scagnozzo intorno, qualcuno che rimbalza, ma siete pochi e reggete, sì. Siamo, cioè, diciamo, i sei in cui, a cui girano intorno poi gli altri vari personaggi. Ci poi, sono, per carità. Se prendi estrapolata ogni storia, si potrebbe fare una serie su ogni personaggio. Sì, assolutamente, proprio a parte. Uno spin-off, esatto. Per ognuno, anche Filippo Nigro, parte difficile, perché sono le parti più normali. Sì, la sua e quella di Edoardo sono le parti che hanno bisogno di più sfumature, ma anche quella di Claudia, no? Che hanno bisogno di più sfumature, di dover raccontare... Asciutto. Sì. Voi potete spingere devi raccontare la corruzione di una persona che parte da un punto e deve arrivare all'opposto. Quindi... ce lo sentiamo un pezzo prima? No, stiamo andando in pubblicità, me lo sento dopo. Tu, per cui sei arrivato a Roma, la prima persona che hai incontrato sono stato io. Sì. Quanto mi spiace. E tutti i tuoi magnifici insegnanti. No, ce n'erano 14. Tutti. Mio fratello, Alessandro, Vito Caporale, Donatella Pandimiglio. Già c'era Donatella. No, c'era Silvia Gavarotti, c'era tanti, Claudio, tuo fratello, Roberto Pedicini. È vero. Francesca Draghetti, poi. Ce ne sono stati tanti. Ce ne sono stati. È bello tanti. Perché era anche gratuita quella. Assolutamente. Raccontiamo, sì, che era gratuita. Era gratuita, cosa sono più orgoglioso. Di studio, assolutamente. Esatto. E adesso mi dovrei ridare un po' di va bene, ma piano adesso. Piano. Che piano piano, la seconda stagione intervengo. E allora, a tra poco con il mio amico Spadino e con Boys Anatomy. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Anatomy. Bentornati signori miei, 15-17 primi e Giacomo Ferrara al mio fianco. Stavamo parlando di Suburra e di Alta Operazione, parleremo di tante cose, anche del film che hai fatto. Molto bello, devo dire, Il Permesso, 48 ore fuori, di Amendola, vero? Di Claudio. Sì. Quel sì, film, sì. Bello bello davvero, dove vinci anche un bel premio, il Guglielmo, sì, stato... Biraghi come giovane, sì, rivelazione dell'anno, in Asti d'Argento 2017. Sì, è stata una bellissima emozione vincere, sì. Claudio premio. Poi credo che sia maturato tantissimo, nel senso, sì, che si è anche tranquillizzato a livello sportivo, penso un po' te, insomma, anche più così arrabbiato. Beh, diciamo che a quel punto non vi prendete tanto, no, lui, però siamo molto amici, ci siamo fatti, sì, sì, 15 anni di derby del cuore ed ero l'unico che lo calmava in, okay, tutti, quando andavamo fuori, eccetera. Poi racconteremo con Claudio, perché lui quando è fumentino, vabbè, non vabbè. Esiste altro, sì, sono due passioni e ma le che senti scherzi, ma poi forte, lui è veramente, no? Bravo, mi fa piacere questo suo lì, come è nata? Lui ti ha visto, ti hanno visto a Suburra? Beh sì, avevamo fatto il Suburra il film insieme, anche se non ci eravamo mai beccati sul set, pensa, nemmeno di sfuggita, però avendo visto il film si era interessato a me. All'inizio io dovevo fare il ruolo di suo figlio, mi aveva provinato per quello, e poi non riuscendo a trovare un angelo, che poi è l'altro protagonista, sì, insieme a lui, Luca Argenter. Valentina Bellè, disse: ma lo vuoi fare sto provino? Vediamo com'è. Alla fine mi ha preso per quello e insomma ho fatto quel protagonista. E invece poi... il provino di Suburra com'è andato? Perché è stato particolare, si può raccontare? Molto particolare, no, assolutamente. Che è bello anche per gli attori che stanno ascoltando. Assolutamente, assolutamente. E per le persone, per capire come funziona la vita di una persona che può cambiare dallo sliding, certo, doors, come diciamo, certo, sempre qui. La tua vita è cambiata. Assolutamente, no, il provino di Suburra è stato proprio il fatto che Laura Muccino e Sara Casani, che sono grandissime casting, che veramente ringrazierò a vita, e, mi chiesero di fare da spalla ai provini, in realtà. Sì. Cioè, tu prima sei andato io a fare il provino. Io sono andato a fare da spalla a quelli che venivano provinati per Spadino, per Ma numero lei già 8. Fatto il provino per te? Sì, l'avevo già fatto il provino per me, però non erano totalmente... non li avevo colpiti fino in fondo. Facendo da spalla poi hanno detto ma perché non lo rivediamo, non gli diamo l'occasione? Perché comunque sia, se tu vedi, sei in uno stato di non stress in quel caso, esatto, quindi sei più tranquillo, dai il massimo, capisci esattamente quello che cercano, e quindi è stato un po' così, capire quello che volevano. Beh, meno male. Sì, sì, meno vedi male. Poi ci sono stati i provini con Stefano, ovviamente, quelli... Certo. Sono stati belli intensi, provini di quasi 2 ore, dove, perché Stefano è minuziosissimo, assolutamente. E è un grandissimo regista. E tu a guardarti, Giacomo, per noi, per me, per Alessia, per Alessandro, tutte le persone che conosco, tu sei un buono. Cioè, sì, io non t'avrei. No, ma è normale, è più facile per un buono. Sì, non sei così, assolutamente. Però. Certo, è più facile per un buono fare l'assassino, come per uno che ha faccia cattiva essere buono, cioè colpisce di più. Però è vero pure che tante volte non si legge oltre la faccia, certe volte i casting sono molto rapidi, cioè sono persone non proprio del mestiere, addetti ai lavori, sono molto si scappa, si fugge, la fiction deve cominciare, mi serve qua la faccia, non vanno oltre. Tu mi hai parlato della Muccino, che insomma è una che invece sta molto attenta, è la sua grande professionalità, sta nel fatto che dice: senti, perché non mi fai da spalla nei provini? Assolutamente. Non la faccio io la voce fuori campo, me la fai tu in campo, vicino all'attore, che mi... anzi, aiuti pure chi viene. Sì, sì, sì, perché poi migliore. Io andavo lì ai provini e non è che lo guardavo con frustrazione o comunque gliele davo male per farglielo far male. No, anzi, ci mettevo tutto me stesso, come se fossi comunque lì, dovevo aiutarlo. Hai fatto quindi... anche la controparte tua, cioè chi provava per Spadino, sì, tu facevi magari la parte di Borghi. Io numero 8, sì. Ottimo. Sì, sì, sì. Mamma mia. Sì, vabbè, però poi il bello è che poi capisci... E ci sono stati appunto quei provini con Stefano. Certo, dove... perché si assomigliavano anche un po', insomma, erano due personaggi duri, abbastanza... Però, sì, sono due mondi diversi, due mondi diversi. Beh, uno è però, zingaro, poi uno l'altro è più ironico, sornione, l'altro è molto più duro e diciamo cattivo come... Sì, sì, un po', ma sembra anche Walt Disney ogni tanto, penso. Cioè, è bello, perché i colori, le cose, le facce che fate, sì, sì, è un bellissimo gioco sull'attore. Sì, sì, sì. Senti, invece un'altra cosa importante è che c'è Suburra, che poi rimarrà, ringraziando il cielo, no? C'è, siamo persone che sfuggono da personaggi che poi caratterizzeranno la loro vita, un tormentone per un comico, un film per un attore, però tu ti stai diversificando. Intanto sei una persona che non lascia il teatro. No, no, assolutamente. È quello, nasci col teatro e continuerai col teatro, sì, appena avrai due secondi di più. Assolutamente, assolutamente. C'è un impegno teatrale che vogliamo ricordare. Di chi, sì, di una... però non è mio. Non nel è senso, tuo, però noi conosciamo le persone che sono dentro. Ci sono cinque attrici meravigliose, c'è la Alessandro regia Prete. Di Alessandro Prete, cinque attrici meravigliose che saranno in scena dal 23 al 26 di novembre al Teatro Cirano di Roma. Con questo dov'è spettacolo? Il Teatro Cirano? È nuovo, no? Sì, è nuovo, è vicino le mura vaticane, quindi okay, abbastanza centrale, e, anzi centralissimo, mura vaticane. Vaticane. Tu l'hai frequentate molto in Suburra, le mura vaticane? No, perché, no, però, perché insomma, stavo da tutt'altra parte. Esatto, però. Spettacolo molto bello, dove si racconta la storia di cinque donne, quindi... veramente storia estrema, immagino. No. Sono queste cinque amiche che si ritrovano per un weekend diciamo di divertimento e svago a Parigi. Cinque donne che hanno cinque vite diverse in diverse parti del mondo, che però sono accomunate da questa amicizia grande, e fanno questi programmi che poi non verranno mai realizzeranno mai, e rimarranno a casa e faranno questa sorta di pigiama party. C'è sempre c'è il mondo drammatico anche sotto, che poi viene fuori come ogni spettacolo di Alessandro. Sì. Però è una commedia per tutti, assolutamente. Dal 23 al 26 novembre, Teatro Cirano. Noi ci saremo. Io non sarò il 23 alla prima, perché il 23 c'è il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Io lì non ci posso essere. Non ci puoi essere perché stai alla prima di sì, là. E allora vedi, non ci possiamo incontrare lì, no. Ma ci incontriamo a guardarlo, sì, lo rivediamo, sì, sì, sicuro. Assolutamente. Mentre tu hai un film che è in uscita, è ha già fatto, finito, in post-produzione, fatto... siamo con Guarda in Alto di Fulvio. Siamo andati alla Festa del Cinema di Roma, all'interno di Alice nella Città, quindi un bellissimo programma, attento molto ai giovani, soprattutto alle opere prime. E è un'opera prima, Risuleo si pronuncia? Fulvio Risuleo, okay, il regista, la produzione La Revoque, è un'opera prima di questo ragazzo che ha 26 anni, che però bello, ha già vinto due premi a Cannes con due cortometraggi, quindi è veramente un Xavier Dolan è veramente un genio, una storia molto particolare di questo fornaio che sale sul tetto a fumarsi una sigaretta in una pausa lavoro, vede un gabbiano che scende dal cielo in picchiata, si incuriosisce di questo avvenimento e dice: ma io voglio andare a vedere. Vede che tutti i tetti sono collegati, inizia a scavalcare e scopre dei mondi. Un mondo diverso. È tutto un on the road sui tetti di Roma, dove lui incontra personaggi bizzarri. Che bello! Sì, è un'avventura meravigliosa, dove il personaggio, che il mio personaggio, che si chiama Teco, all'inizio è un po' depresso perché la sua vita non, è, non sta andando come vuole, e si ritrova in questo viaggio a tornare a sognare. Quindi è ma che bello, bellissima, cioè, questo metafora. On the road sui tetti, e sì, non sì, più sì. Un inseguimento di polizia e cose, ma... E c'è un'altra Roma raccontata in un altro modo, tutta dai tetti, no? E un po' ricorda il barone rampante che passa da un albero all'altro. Sì, da un albero all'altro, certo. O non so, adesso non mi ritorna in mente il nome di quel film di lui che si fa piscina dopo piscina. Oddio, è... No, non me lo ricordo, aspetta. È un film bellissimo, vecchio, di questo che passa da una piscina all'altra. Adesso non mi raccontatecelo, signori, 349-238-6666, diteci il titolo di questo film. È un film vecchio, non so se lo conoscono. Ma guarda che conoscono delle cose che abbiamo fatto io e te che noi non ci ricordavamo, perfetto, guarda, per cui qualcosa, qualcosa... Allora aiutateci. Esatto, assolutamente sì, qualcuno ci aiuterà. E il titolo è questo, beh, Guarda in alto. Bello. Guarda in alto, sì. Quando uscirà appunto, questo, ritorno a sognare, quindi. Questo non si sa ancora quando uscirà, però stiamo... Produzione indipendente. Produzione speriamo indipendente. La distribuzione è quella. È un'opera prima. Prima, sì, è un'opera prima anche per la produzione, che da lì aveva fatto solo corti, appunto i corti di Fulvio che già avevano vinto a Cannes. Che bello. Sì, sì, sì. Potrò partecipare anche all'Oscar come corti a quel punto. Beh, esiste pure. Sì, adesso non so come è andata a finire, però diciamo che già due premi a Cannes sono andati, non è male. Non è andata male. Devi vincere tu adesso questo premio. Speriamo. Ma questo vediamo. È lo startup. Weber, come vi siete incontrati? Cioè, ti ha cercato lui? Facendo provini con Chiara Polizzi, un'altra grande casting che saluto. E ci siamo conosciuti, abbiamo fatto prima una chiacchiera, poi c'è stato il momento di fare appunto proprio il provino sulle scene e ci siamo trovati sia a livello lavorativo che personale. L'hai capito stessa... subito che era andata bene? L'hai capito immediatamente? Ma detto... sai, le chiacchiere che fai con i registi non sai mai se vanno bene o vanno male, perché vogliono un attimo conoscere te, certo. Poi chiaramente ognuno ha la percezione di quello che è stato, se hai dato il massimo oppure se potevi fare di più. Poi non sai mai se va bene, insomma, non si lasciano andare, lasci una foto, no? Sì. Il discorso sì, è quando, se ti capita nel doppiaggio dopo un provino ti dicono lasci una foto, vuol dire che non è andata benissimo, perché la foto al doppiaggio cioè, fai niente. Non serve a molto, no, dice. Giacomino mio, senti, mi preparate quella lettura per favore per Giacomo Ferrara che vi avevo detto prima? C'è già? Allora dopo, il blocco dopo, non la voglio far vedere, non la voglio... Ah, c'è già, c'è che già. Cosa mi avete preparato? No, niente, qui ognuno fa qualcosa all'opposto di quello che è, in vabbè, qualche modo, oppure un gioco. No, non te dopo poi... Miranda mi fate fare una brutta figura, insomma. Non la fai, c'è una serie che va in tutto, in quanti paesi è stata venduta Suburra? Eh beh, in tutti i paesi dove c'è Netflix, quindi 190 paesi. 190 paesi, per più cui... di 130 milioni di utenti. Per cui... Quindi è una bellissima opportunità. Il titolo del film è L'uomo a nudo? Un uomo a nudo, quello della piscina che passa piscina. Sì, piscina. Sì, sì, sì. Sì, esatto. Hai capito? Ecco. Hai visto? Ecco. Ammazza. Meno male che andiamo in pubblicità. Meno male, meno male. Va bene, almeno possiamo andarci a sfogare con chi ci fa queste figure. Potevi dirmi pure in un'altra maniera che facevi te. The Swimmer. Vabbè, adesso questo è essere un po' sboroni, comunque, così stiamo esagerando. Vabbè, ci sta, dai, ci hanno ripresi. Porca miseria, a tra poco con Giacomo Ferrara, ancora 10 minuti insieme, poi chiuderemo col tutorial sul canto. Abbiamo finito quello sulle pillole vocali di salute, andiamo sul canto con Donatella Pandimiglio. Ma ancora Giacomo Ferrara, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci, 15:33 e 40 secondi in questo momento. Eccolo qui Giacomo Ferrara di fronte a me, lo metto alla prova. Per va cui bene, va gli bene. Ho dato in questo momento la poesia di Giacomo Leopardi, L'infinito. Speriamo non si rivolti nella tomba. No, ci ha fatto un flip-flack, rondata e doppio salto a rientrare. E però la vorrei, anche tu, chiedo un'interpretazione diversa dalla bella voce che lo sai fare, perché tu vieni da lì. Da lì. Però mi piacerebbe che come Spadino tu interpretassi questo infinito, va bene, di Leopardi. Ci proviamo assolutamente. Mauro Megoni è pronto per riprenderti. Ci siamo? Siamo anche in diretta e poi andiamo anche sul sito nostro. Perfetto. Di Voice Anatomy su Facebook. E allora con la musica elettronica scelta da Alessandro partiamo. Sempre caro me fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte è l'ultimo orizzonte il guarda esclude, oh. ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete. Io nel pensiero mi pingo, ove per poco il cuore non si spaura. È il vento. Odo stormir tra queste piante. Io a quell'infinito silenzio, a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni. E la presente è viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio. E la pregar me dolce in questo mare. Ho fatta, fatta così, ho provato, no, bella, non so, sapevo, bella, ho provato, bella. Ho cercato, ho fatto mezzo. No, ci stava, è bello, sì, perché sì. Poi adesso lo vedete anche perché l'ha ripreso ovviamente Mauro e lo metterà anche in diretta, già direttamente su, su Voice Anatomy, ed era bello perché con una penna faceva la sigaretta, le facce erano quelle dei... Ci aiutiamo con la pensione. Dimmi. Era una canna. Una, sì, si può dire, sì, una canna, sì, canna, sì, sì, dire, sì, no, dai, per rientrare nel personaggio, un certo, po' ti aiuti come puoi, no? Certo, senso, non è che fumasse. È da un po' che non lo rifaccio, quindi era... È vero, perché poi insomma uno lo vede adesso, ma quando c'è un grandissimo lavoro dietro. Mamma mia, quante durate le riprese? Sono durate 7 mesi. Oh. 7 mesi intensissimi. Poi tra l'altro venivo dal film Guarda in Alto, che appunto è un fornaio, è tutta un'altra cosa. Stavi sui tetti. Stavo sui tetti, sognavo. Sognavi. Incontravo persone. Chi ammazzi fai. Là veramente totalmente. Ma è il bello del nostro lavoro, lo saprai benissimo. E ci permette proprio di rimanere bambini per sempre. E di giocare, sì, sì, e giocare, perché tu cattivo così non lo sarai mai. E meno male. Meno male, perché fai veramente paura. Ogni tanto ti guardo e dico no, è mio amico. Beh, cioè, Giacomo. C'è una faccia un po' da psicopatico. Mamma che... e papà che hanno detto vedendo in quelle, vabbè, condizioni. Mia madre tutte le scene dove c'è il sangue un po' chiude gli occhi, insomma mio padre ride. Sì. Sì, sì, sì. Però assolutamente, vabbè, lo sanno anche loro. Ma che certo è che è così, finzione, quindi, in qualche anzi, modo. Anzi mia madre dice ma quando mai farai, quando farai un personaggio buono, poi li portate a vedere Guarda in Alto, insomma. Ah, l'hanno già visto. No, sì, anche il permesso era sempre un carcerato, sì, che aveva il permesso di 48 ore, però era un ragazzo molto dolce che aveva capito che non la strada del carcere non era della criminalità, non era quella che voleva, insomma sognava di fare il giardinaio e... Se, giardiniere, se, giardiniere, se, vabbè, giardinaio, vabbè, no, se era Spadino, che sì, te, sì, te sì, sei impossessato, sì, Spadino. No, ma è bello perché ti sei sdoganato subito, insomma, in qualche modo. Ci, beh, vorrebbe, sì, adesso, sì, poi, sì, un'altra, sì, magari, ma, serie, ma ci sta, insomma. Ma io normale, assolutamente vorrei fare tutti i personaggi diversi. Sì, come, ma come l'età penso te lo permette, santa, sì, miseria. Sì, sì, oh, assolutamente. Devi mollare un attimo prete, che sennò te fa far cattivo. No, non è vero, non è vero. No, anzi, guarda, abbiamo dei progetti insieme, già mia... Sì, sì, sì, c'è l'idea. Stiamo vedendo, mi porta da tutt'altra parte invece. Ok, bene, bene, meno male, basta rimanere nel cinema. Sì, sì, sì. Che, sì, preferisci, teatro, cinema? Ma sai, come tu ben saprai, sono due mondi diversi che danno tanto. Cioè il teatro è veramente stare con la pelle viva, il sangue che ti scorre nelle vene, e dare sempre ogni sera la stessa energia, la stessa potenza, ricrearla ogni sera e avere il pubblico diverso che è a contatto con te, quindi lo respiri. E fare l'amore ogni volta con una donna diversa, sì, sarebbe assolutamente, il teatro, ogni sera con una donna diversa. Però devi dare sempre la stessa cosa. Il cinema è un'esperienza visiva molto forte che ti dà... Arrivano delle belle cose, insomma, complimenti, ovviamente non possimo dire le scene che nominano perché se no ci ammazzano e ci denunciano. Sì, vabbè, adesso è anche un mese, però il bello di Netflix no, è che lo puoi vedere sempre, quando vuoi. Io lo sto vedendo da poco, cioè non l'ho visto dall'inizio. Infatti ti dirò come finirà. No, che mi manca l'ultima puntata, vedi che sei pazzo, sei, ti uccido adesso. Te faccio te sfuno, anche perché Adamo è mio amico, il protagonista, è tuo, sì, fratello. Sì, sì, sì, grandissimo attore, sì, anche lui. È mio amico da 1000 anni, quando l'ho visto lì, la parte dello zingaro così dura, lui che è un altro uomo, che sì, è sincero, sì, carino. Sì, sì, poi un tuttologo, ci parli di tutto. Sì, no, Adamo è pazzesco. Ma come te che parliamo di musica, parliamo... Esatto, poi mi fermo prima, sì, che gente capisca che no, ci capisco niente. Non è vero, non è vero, anzi, ci puoi parlare degli occhiali, delle scarpe, parla di tutto, sa di 1000 cose. Esatto, Adamo è carino, infatti io voglio ospitarlo presto, poi ci lega anche una passione calcistica, beh, sì, ci siamo conosciuti lì, in Cuba, beh, sì, pensa sì, un po' sì, te. Beh, la Lazio, sì, c'è un tanti della Lazio. Oggi poi non c'è il calcio, non c'è il calcio. Qui dice: carissimo Giacomo, Suburra è stato doppiato all'estero. Se è così, quali sono le tue impressioni? Dice Mario. Beh, sì, è stato assolutamente doppiato. Credo in inglese, in tedesco, in spagnolo, francese e non so, credo siano 7 lingue, mi pare. Non vorrei sbagliarmi. Basiche. Sì, sì, sì. E ti sei risentito? Mi sono risentito in inglese, in francese, le voci c'erano. Giustamente ti fa uno strano effetto. Esatto. Dici, ma chi è questa? Ma soprattutto poi non possono ridare quel romano come noi non riusciamo a dare. Beh, magari sì, quell'inglesaccio, quell'americanaccio. Sì. È difficile, sì, sì, sì. È difficile, però è assolutamente bello di stare su Netflix e vedere. T'hanno riconosciuto? Sei andato all'estero ultimamente? No, non sono ancora andato all'estero. Hai fatto una passeggiata? Sì, sì, adesso vediamo. Perché va molto in Sud America per lo più. Beh, loro quindi poi sono tutto in Colombia, c'è gente molto. Brasiliani, argentini, messicani che mi scrivono in continuazione, mi chiamano Daga lì. Daga. È spada in. Ah, certo, la Daga. Sì, la Daga, e quindi mi scrivono. Lì, no, è bellissimo perché ti dà l'opportunità di essere tutto in tutto il mondo. Ma tu non le solo lingue le sai, noi. Devi studiarle, perché così c'è la possibilità di anche lavorare. Sto continuando a studiarle per saperle proprio benissimo, però sì, conosco. Poi lì c'è Narcos, insomma, in Colombia, Narcos. Che bella quella serie. Sì, bellissima, ma anche Stranger Things, sì. Ozark, non so se l'hai vista, sì, quella è bellissima. Però certe le doppio non lo posso dire, devo dire quelle che doppio io, ma posso. Dai, le altre le dico io. Io purtroppo firmo come te delle cose che non puoi parlare delle serie che stai facendo, dei provini che ti hanno fatto fare. Vabbè, se no si scopre già il bello. Ho no? capito, però così diventa terribile. Allora, siamo arrivati alla fine, 30 secondi insieme a Giacomo per salutare. Giacomo, chi devi ringraziare? Ma chi devo ringraziare? Mamma, papà. Mamma, papà, Alessandro. La mia fidanzata Cristina. Cristina, che io abbaccio. Te, Pino, no, assolutamente. Vabbè, no, ti ho accolto, tutte, ma tutte le persone, amici che mi sono sempre vicine e che mi sostengono. Noi siamo molto contenti. Questa è l'espressione di un ragazzo dolcissimo, grande professionista. Grazie. È sempre rimasto identico. Resta adorato, come i ragazzi della 56esima strada, stay gold. Sì, e non sì, cambiare. Sì, assolutamente. A tra poco, signori miei, con la Donatella Pandimiglio e questo tutorial. Poi ci saluteremo. Vi ricordo, Mamma Nero è uscita la 7ª puntata su Voice Anatomy e tutti i siti connessi. Ciao, ciao a tutti! Ciao Giacomo! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, Pino Insegno, lo sapete perfettamente, ma non sapete chi mi ha raggiunto al mio fianco, alla mia sinistra. Abbiamo promesso qualche settimana fa che Donatella Pandimiglio, la bravissima non solo cantante ma anche grandissima insegnante di canto in tutte le sue declinazioni, è qui e, come ci ha promesso, ci accompagnerà in un tutorial, un tentativo molto difficile e importante di insegnare per radio a cantare, no Donatella? Buongiorno, sì sì, buona domenica a tutti. Sì sì, effettivamente è un nuovo esperimento. Sì, non è certo fare mimo per radio, quello è veramente difficile. Quello è un po' più azzardato, direi. Sì, però sapete, esatto. Vi ho abituato bene, insomma, quest'anno già con Franco Fussi, adesso continuiamo con Donatella Pandimiglio. Voi sapete perfettamente che potete riascoltare queste lezioni, questi tutorial, come tutta la trasmissione, attraverso i nostri podcast e il sito di Radio 24, insomma, tutto, lo sapete, tutti i social media del mondo li conoscete meglio di me. Per cui cominciamo, Donatella. Allora, lui, dove siete? Siete, fermatevi. Fermi. Buoni. E ascoltate. Anche sotto la doccia, questo va abituerà, ma non soltanto per i cantanti poi serve questo, anche no, per le persone normali, per saper canticchiare meglio. Per conoscersi meglio, perché lo dico sempre, la voce è l'elemento di comunicazione più importante, sì, che c'è al mondo. Assolutamente. E non è la bella voce, ma le cose giuste che possono fare con la voce. E per cui, da dove cominciamo? Allora, diciamo che questi, posso fare dagli questi, così? Ma come no? Ma tu sai che ho tentato di... Non riuscendoci. Cercavo di costringerti in accademia. Lo so, a tale quale solo hai visto, sono arrivato ultimo, però... No, lì ormai era pure un gioco prendere il 5, qualche volta mi ridavo pure qualcosina di più. Sì, certo. Però, insomma, diciamo che sono un ottimo allievo, in questo momento l'unico in diretta, no, tanti in diretta, ma io posso reagire tu proprio dal vivo. Io diciamo, farò la figuraccia, la farò dal vivo, va bene? Va bene, allora diciamo che questi tutorial, queste pillole di tutorial, io voglio che siano veramente ovviamente per tutti, perché a partire proprio da questa prima lezione, tra virgolette, radiofonica, che parte con la respirazione, perché per usare bene la nostra voce dobbiamo imparare a conoscerci. Allora io dico sempre che ai miei allievi che si canta, si parla una lingua per imitazione. Certo. Perché nasciamo in Italia e cominciamo a parlare italiano, nasciamo in Inghilterra e parliamo in inglese, quindi per imitazione dei nostri genitori, e si comincia a cantare perché ci piace, perché ci attira, magari cercando di imitare la canzone che ci piace di più, il cantante che ci piace di più, e quindi è così per si comincia nostri, a cantare. I nostri figli vanno in emulazione, cioè io spero che mio figlio non prenda dalla madre, perché quando canta è un macello, Alessia, va bene? Vabbè, allora, ma avrà poi tu una cosa interna. Questa è una cosa però, interna. Diciamo, al di là della imitazione dei genitori, diciamo, si tende ad imitare magari il cantante disco, o la cantante che ti piace sì. di più, insomma. Se poi in casa hai anche certo. Bocelli, allora esatto. È chiaro, imiti papà, insomma, in qualche modo, no? Sì. Infatti abbiamo ascoltato tempo fa esatto, in diretta televisiva, poi sì. Parte la conversazione in studio, ma al Colosseo il figlio di Bocelli che si è esibito a 19 anni e sembra, chiudendo gli occhi, sembra il padre, veramente incredibile, sembra il padre da giovane. Pensiamo come si parlano in famiglia questi. È pronto? Sì, vieni a tavola! Esattamente, un po' se così. Se cominci così l'imprinting è quello. Quello. Cioè, perché parla così? A scuola le interrogazioni. E qui cominciamo però ad anticipare il fatto che la voce è impostata, ma insomma questo vabbè, poi vabbè, lo diremo più avanti. Sì, lo diremo più avanti. Allora, la respirazione. Signori miei, intanto ognuno di noi è un mondo unico. E quindi, per quanto ci dicano anche a noi professionisti, a me mi hanno paragonato a delle grandi voci mondiali e io me ne sento insomma un po' preoccupata, spaventata, ma molto orgogliosa di questo, insomma. Però poi ognuno di noi è un cosmo a sé. Sì. Quindi cerchiamo di non voler pensare, questo lo dico a chi magari si accinge a iniziare a fare questo tipo di lavoro, di voler essere come quello sì. o come quella. Noi siamo un nostro mondo, le estensioni vocali sono quelle che noi abbiamo in natura, che possiamo ottimizzare attraverso una conoscenza tecnica, ma sono le nostre e non sono di nessun altro, quindi dobbiamo cercare di dare al meglio quello che noi siamo. Non dimentichiamo mai questo. Allora, la respirazione è una cosa fondamentale, quindi quando dicevo che facciamo tutto per imitazione, e in realtà la conoscenza fa la differenza. Così come per imparare a camminare è una cosa istintiva, quando poi andiamo a ballare, quindi ci avviciniamo alla danza, certo. ci accorgiamo che magari muovere le braccia con le gambe in un modo sincronizzato particolare, improvvisamente non lo sappiamo più fare. Certo. Perché se lo facciamo per istinto, lo facciamo senza sapere. Se lo dobbiamo fare con consapevolezza, diventa difficilissimo. È come la respirazione. No? Tu respiri perché allora, vivi. Allora, respiri perché vivi, no? Certo. Allora, dice la respirazione, perché io non respiro, certo, certo, respiriamo tutti. Però dobbiamo cominciare a conoscere come respirare, a sentire il nostro corpo. Allora, siete pronti ovunque voi sì. siate, sedetevi su una sedia qualsiasi. Ok, io già ci sono. Sei pronto? Sì, però tu provo. Sei seduto troppo comodo. Allora il consiglio è no, scomodi. Vabbè, a te vabbè, ti perdono perché sei, hai un microfono davanti e te lo posso concedere. Però chi non ha il microfono come te, come sì. me davanti in questo momento, si può sedere mettendosi avanti su una sedia, non seduto come si suol dire a Roma stravaccato, perché ecco, sto in pizzo, così in pizzo con le gambe parallele. Ecco. E facciamo un respiro profondo nasale. Allora, inspirazione nasale e ispirazione. Adesso parliamo dell'inspirazione. Inspirazione, quindi okay. inspirazione profonda, naturale, tranquilla, rilassata. Braccia solo sulle, nasale, braccia poggiate sulle, sulle gambe. Okay. Quindi un bel respiro profondo con il naso. Via. E lasciamo andare. Via. Senza bloccarlo con la glottide chiusa alla fine dell'inspirazione. Cioè, riusciamo a inspirare, ve lo faccio sentire. Allora, il respiro quasi non si sente. Allora, non devo fare rumore con le narici. Bravo, ecco. Esattamente il contrario. Quindi non dobbiamo contrarre le narici verso l'interno, ma anzi, perché sia profondo, allargare le narici, come se volessimo far entrare meglio l'aria dentro di noi. E allora, in questo modo, che cosa facciamo? Sentiamo il nostro corpo. Rifacciamolo. Vai. Si allargheranno gli addominali, si alzerà il diaframma. Perché? Per diciamo allargare... Diciamolo che cos'è questo benedetto questo diaframma. Io lo ripeto sempre. È una calotta muscolare... Che sostiene le nostre viscere. Che sostiene i polmoni. I polmoni, sì. Allora, che cosa succede? Nell'apparato respiratorio noi muoviamo tutti i muscoli della respirazione. E se date ascolto a questa respirazione seduti, come vi ho chiesto, sentirete che con questa respirazione profonda nasale... Si solleva questo muscolo, questa calotta, che sostiene, quindi vi si allargano, sentirete allargare i muscoli costali anche dietro la schiena e sentirete allargare gli addominali. Per cui non bisogna tirare sulle spalle, se mai, no, ecco, assolutamente questa è una mai. Cosa importante. Ecco perché comincio a farlo fare da seduti, perché da seduti in piedi certo. Invece stando seduti, insomma, va solo nei polmoni e finisce. Sì, l'idea di inspirare contraendo gli addominali, noi creiamo una situazione non rilassata, quindi non riusciamo a riempire questo calderone che abbiamo di aria completamente. E siccome per cantare bene, ma anche per recitare e per parlare bene, togliere l'ansia quando uno parla, esattamente. Se non avete sentito quelli che vi parlano, e poi riprendo perché sono nervosi, perché questo sono vi agitati. Rilassa molto. Qualche Infatti. Bel respiro, anche così, prima di iniziare uno spiccio, qualcosa va sempre bene. Questo anche prima di parlare vita, a vostra moglie, con vostro prima marito. Prima di tornare a casa. Esatto. Alla fine di una mettere giornata mettere seduti pinzo in pizzo dalla macchina, fate una decina di respiri, bel training autogeno e non deve fare rumore l'ispirazione, questo no. È vero, penso io prima avviso ho fatto subito. Esatto. Eppure faccio questo di mestiere, lo sbaglio anch'io. È questa cosa di inspirare allargando le... E se ci fai caso, inspirando così si aprono ancora di più i polmoni. È vero. Entra ancora più aria. Ma questo è solo l'inizio, ma come si dicono nei trailer, è questo. È soltanto l'inizio. Con la tua voce. Ma questa, mamma mia, è un'altra storia. Mi brividi. Eccolo là, mi salva quello. Come quando mi dicono: "Pestata, che voce che hai e che corpo? Ne vogliamo parlare?" Tu devi dire: "E con il mio corpo per questo faccio la radio, perché esatto. È un corpo pazzesco." Pazzesco, e per questo faccio il doppiatore. È meglio, però ormai mi conoscono. Sai certo. Che è molto interessante questa cosa. Noi abbiamo già quasi finito il nostro tutorial di oggi, manca un minutino, però ci dobbiamo torniamo sulla respirazione. Però è bello così piano piano, perché adesso la gente dice: "Ok, mo ho imparato a respirare." Non è poco. Allora, diciamo un'altra cosa sì, al volo. Sì, ce l'abbiamo, dai, piccola. Vai. No. Allora, vi dico a proposito del rilassamento che questa respirazione che rilassa tutte le viscere interne profonde, quando facciamo il respiro di sollievo, uno che cosa fa? Allarga tutto, si sente sbloccare le tensioni nervose. Sì. Infatti, questo principio di arrivare alla profondità nasale nella respirazione, indovinate a cosa si lega? Allo yoga. Certo. Alla concentrazione base, alla respirazione ecco, base yoga, che sblocca il chakra vitale che è nel centro del nostro corpo. Quindi pensate quanto è importante entrare in sintonia con una buona respirazione. E non stiamo facendo filosofia. No, eh? No, sembra, ma non è filosofia. Ma sapete quanto si sta meglio se si impara a respirare? Anche quando a letto non riesco a dormire perché ti nervosisci, perché si accorce. Quando c'hai il respiro corto, cioè perché stai in tensione, perché hai contratto tutto. In questo modo... Concentratevi. Mettetevi da una parte, concentratevi. Dopo imparerete a farlo anche in piedi, ma tanto alla prossima, esattamente. Ci vediamo la prossima settimana. Poi se vogliamo dire un'ultima cosa, sì. Piccola, e poi ci lasciamo alla prossima. Continuiamo la respirazione la prossima settimana, voglia. Sì, come no? Sì. Si fanno lunghe lezioni nelle accademie su questo. Ma io tutto ancora la studio. E quindi, allora, ve la lancio perché poi da questo ripartiremo. Provate, dopo che avete capito come fare, innanzitutto a buttare l'aria per adesso, dopo l'ispirazione buttatela svuotando tutto insieme. Ma provate dopo 4-5 volte col nasale ad aggiungere anche la respirazione insieme al naso con la bocca, ma la bocca come terza narice. Che vuol dire? Non questo, cioè non... Questo è qualcuno che ti telefona no, a notte. No, nel senso che lo faccio sentire certo. Evidente, cioè non facendo un respiro che chiude la glottide, ma sempre con la distensione dell'apparato respiratorio. Però lo proveremo la prossima volta. La prossima volta. Okay. Domenica prossima. Grazie a Donatella, ma soprattutto grazie a voi di averci seguito un'altra domenica qui a Voice Anatomy. Ringrazio tutto il cast di questa trasmissione, grazie al nostro tecnico del suono, Alessandro, grazie a Alessia Navarro e Mauro Meconi, autori, grazie a Rachele, caporedattrice, grazie a Milano per la messa in onda, come sempre. A domenica prossima e grazie per volerci così bene.